Rudolf Lill dell'Università di Colonia, su Bismarck e le leggi contro il Partito Socialista Tedesco. Il professor Lill, avendo già fatto distribuire il riassunto in tedesco della sua relazione, parlerà in italiano, perché la maggior parte qui conoscono l'italiano e non il tedesco, mentre i tedeschi, tolta forse la dottoressa Mittmann, capiscono l'italiano, ma comunque possono leggere, se non capiscono l'italiano, il testo in tedesco. Noi ringraziamo il professor Lill di questa sua cortesia e gli do senz'altro la parola. Grazie. C'ho da trattare un argomento che sembra di esulare un po' dall'argomento del seminario, perché qui non si tratta di una tappa o di una specie di politica del movimento socialista, però di una reazione che mi pare è stata fra le più importanti reazioni conservatrici borghesi contro il movimento socialista, la politica bismarckiana verso il socialismo, che ebbe il suo culmine proprio in quella legge spesso discussa, famigerata, gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie, cioè la legge contro le aspirazioni pericolose della socialdemocrazia, legge che fu emanata nell'ottobre del 1878 dal Reichstag tedesco, con il quale il cancelliere sperava di poter bloccare l'attività del Partito Socialista e di emarginare il movimento socialista dalla politica tedesca. Mi pare che questa legge deve essere inquadrata, va inquadrata nel contesto più vasto della politica interna bismarckiana, almeno sotto tre aspetti. Il primo punto è questo, che lo scopo principale di tutta la politica interna bismarckiana era di mantenere e di rafforzare quel ordine politico monarchico conservatore che era stato consolidato con la fondazione dell'impero prussiano-tedesco del 1870-71. Nonostante tutti i cambiamenti sociali ed economici e nonostante le concessioni che lo stesso Bismarck aveva dovuto fare al Parlamento nell'atto di fondazione dell'impero, lui era deciso su un punto e in ciò non solo lui ma tutta la classe dirigente prussiana, di restare anche per il futuro sulle vie di quello sviluppo particolare tedesco che ha avuto ripercussioni molto gravi per tutta la recente storia tedesca, di combinare cioè modernizzazione economica con mantenimento di strutture costituzionali che diventavano ormai anacronistiche, che dovevano mantenere la posizione di un ceto dirigente pre-industriale e che dovevano evitare la piena partecipazione politica delle masse. Questo sarebbe il primo punto, il più breve, purtroppo gli altri saranno un po' più lunghi. Secondo punto, Bismarck e il movimento socialista. Lui credeva, lui riteneva possibile dei compromessi, specie anche di combinazioni, conciliazioni con un raggruppamento del socialismo tedesco, cioè con l'ala lassalliana. Ancora dopo il 70 lui credeva che non fosse impossibile arrivare ad un compromesso con questi. Però nel movimento socialista internazionale e nella socialdemocratica Arbeiterpartei di Bebel e Liebknecht, che faceva parte di quel movimento internazionale, e Bismarck vedeva dei nemici pericolosi e anche inconciliabili dello Stato nazionale appena realizzato in Germania. Nemici non solo di questo Stato come tale, ma nemici altrettanto pericolosi delle strutture conservatrici di questo Stato che lui aveva creato e che lui voleva mantenere. Basta un accenno al Kulturkampf, perché anche la lotta politica contro il partito del centro era motivato in Bismarck anche per il presunto carattere internazionale del partito cattolico, che nella sua visione poteva avere degli elementi rivoluzionari. Come ha ben illustrato Theodor Schieder, già dagli anni 60 Bismarck temeva sempre più la rivoluzione, e come sapete tutti non c'era solo Bismarck che la temeva, però questo timore della rivoluzione si diffondeva proprio in quel periodo in molti ambienti borghesi conservatori. E sembra che proprio la Comune di Parigi abbia costituito per Bismarck l'elemento decisivo per questa sua convinzione che una rivoluzione di dimensioni europee sarebbe ben vicina. I critici di oggi dicono che Bismarck avesse montato questo pericolo per strumentarlo come un mezzo per integrare altri gruppi sociali e per provocare con questa intenzione guerre preventive sul fronte interno. Ciò sarà vero in parte, però solo in parte, perché dalle fonti, che come sapete oggi talvolta vengono assai poco studiate, dalle fonti risulta come egli veramente temesse, già negli anni immediatamente dopo il 70, dei moti che avrebbero minacciato immediatamente il suo Stato, e come vedesse nella lotta contro i socialisti una necessità imposta dalla ragione di Stato. Già allora, subito dopo la fondazione dell'impero, lui pensava a quella duplice strategia che poi fu messo in atto nell'anno 1878. Duplice strategia nel senso che lui voleva lottare ad oltranza contro il Partito Socialista, sperando di poterlo distruggere, ma che allo stesso tempo riteneva necessario venire incontro a certe richieste socialiste, a quelle che a suo modo di vedere erano giustificate. Cito due testi, uno che ho citato anche qui nel resumé tedesco, in una lettera al ministro del commercio prussiano von Itzenplitz nel novembre del 71, disse: solo l'azione del potere costituito ed oggi al governo può frenare la confusione creata dal movimento socialista, realizzando quello che sembra giustificato nelle richieste socialiste e che sembra conciliabile con l'ordine di Stato del nostro Stato e della nostra società. Non si possono ignorare le richieste socialiste. Lo Stato deve discuterli, soprattutto gli orari di lavoro, la questione dei salari, la mancanza di case, eccetera. Oppure, l'anno dopo, in una relazione immediata all'imperatore, dell'aprile del 72, dove dice: l'internazionale è il sintomo di una malattia mondiale. Le classi non abbienti aspirano ad aumentare il loro livello di vita a spese delle classi possidenti. Un risanamento non è possibile con le misure repressive, è possibile invece solo in quanto si aumenta le possibilità d'acquisto dei poveri. Il governo deve però stroncare attacchi violenti contro i ceti possidenti, perciò si vogliono leggi a ciò idonee e bisogna esaminare se le leggi penali esistenti siano sufficienti. Allora, già in questo testo c'è la duplice strategia, quella della parziale riforma sociale e quella delle leggi che, se non bastano, devono essere create per lottare per sopprimere il Partito Socialista. I primi tentativi di una repressione per mezzo di nuove leggi non riuscivano, perché la maggioranza liberale al Reichstag rifiutava sia il progetto di una legge sulla stampa, sia degli emendamenti al codice penale che avrebbe dovuto punire ogni eccitamento all'odio tra le classi. Perciò sia Bismarck sia il governo prussiano dovevano limitarsi per un certo periodo a delle misure amministrative e vigilanza della polizia, pressione poliziesca, ma ancora nessun altro passo per delle leggi nuove. La pressione amministrativa fu abbastanza forte e l'unificazione dei due rami del movimento socialista tedesco, l'unificazione nella Sozialistische Arbeiterpartei, avvenuto, come sapete, nel 1875, era anche una reazione a questa pressione governativa poliziesca, e c'era proprio questa unione che faceva crescere la forza del movimento e anche i sospetti di Bismarck, e pare che lui, proprio dalla metà degli anni 70, pensava a fare una legge eccezionale per la quale il Kulturkampf, con la legge contro i gesuiti, aveva posto il primo esempio nell'ambito del nuovo Reich. Pensava ad una tale legge eccezionale, però sapeva bene che per farla varare al Parlamento bisognava aspettare un momento opportuno, momento opportuno che poi gli hanno offerto i due attentati contro la vita dell'imperatore Guglielmo I nella primavera e nell'estate del 78. Però, per finire questo secondo punto, Bismarck pensava da 70 in poi a questa duplice strategia: parziale riforma sociale in favore degli operai per integrarli nello Stato e nella società, per renderli tranquilli, per far di loro pensionati modesti dello Stato, e dall'altra parte iniziare quanto era possibile una lotta dura contro il movimento per distruggere il movimento organizzato socialista. Con ciò passiamo al terzo punto. La legge contro i socialisti non va vista solo come un atto legislativo del 1878. Questa legge è una parte integrante della grande svolta conservatrice di tutta la politica interna tedesca che Bismarck ha potuto realizzare negli anni 1878 e 1880. E qui è certo uno dei grandi meriti di quella storiografia critica più recente di Wähler, di Stürmer e di altri, perché hanno sottolineato più dei loro predecessori l'importanza vitale che ebbe per la storia tedesca proprio questa svolta. Si è parlato addirittura, e qui direi con una certa esagerazione, di una seconda fondazione dell'impero, di quell'impero che almeno nel primo decennio aveva delle strutture almeno in parte liberali, con una maggioranza liberale al Reichstag che faceva delle leggi alquanto liberali. Ormai questa svolta, che inizia una politica conservatrice e che è riuscita a consolidare queste strutture semicostituzionali che poi sono rimasti fino alla fine e che forse in gran parte hanno causato la fine di questo impero. Passando dal sistema liberista al protezionismo, nel 1879, questa svolta era in parte una reazione, mi pare legittima, alla grande crisi liberale in cui il sistema liberale era arrivata proprio dagli anni 73 in poi. Però le intenzioni di Bismarck non si limitavano a rispondere a questa crisi. Lui progettava anche tutta una riforma del sistema tributario e delle entrate, riforma tributaria che nella sua visione doveva finanziare anche la politica sociale, e proprio queste sue misure e i suoi progetti in materia economica, protezionismo e riforma tributaria con monopolio di Stato per finanziare una nuova politica sociale, doveva allargare, approfondire il contrasto fra lui e i liberali, un contrasto che oramai comprendeva già anche altre materie oltre quelle strettamente economiche. Il Kulturkampf, voluto dai liberali più che da Bismarck stesso, risultava dagli anni 75 in poi come insuccesso. Allo stesso tempo ricominciava un certo riavvicinamento del cancelliere ai partiti conservatori, dai quali lui si era allontanato proprio nel periodo della Reichsgründung, e poi doveva constatare, e questo forse è stato per lui il punto principale, che i liberal nazionali, nonostante tutte le concessioni che gli avevano fatto i suoi alleati da un decennio, che loro restavano fermi sulle loro tendenze di instaurare, se non oggi, domani o dopodomani, un vero sistema parlamentare, un sistema che era inconciliabile con la visione politica statale bismarckiana. Per tutta una serie di motivi, cioè, che cominciano dalla crisi economica e che hanno il loro centro in questi dissidi di fondo politici per sistema parlamentare o no, Bismarck si decideva di finire, di stroncare l'alleanza con i liberali, con aiuto riguadagnato del partito conservatore sperava di poter indirizzare l'impero e la Prussia su una politica conservatrice la quale veniva chiesta anche dal nuovo tipo di associazioni, da queste grandi organizzazioni di interessi economici che erano nati proprio sotto la spinta della crisi economica che cominciava, come dicevo, dal 73 in poi. La svolta conservatrice doveva inoltre prevenire la formazione di un futuro governo liberale, perché Bismarck temeva che un tale governo sarebbe diventato possibile in caso di morte del vecchio imperatore e in caso di successione del principe ereditario Federico Guglielmo. I primi passi che lui iniziava proprio in questo nuovo contesto per finire il Kulturkampf, per avvicinarsi almeno in parte alla curia romana, erano fatti molto bene per aiutare questa svolta conservatrice, perché il cancelliere sperava di poter strumentalizzare con l'aiuto del Papa il partito del centro per integrare questo partito nella futura coalizione conservatrice che lui desiderava. La lotta contro i socialisti divenne in questa situazione per lui un fattore essenziale, perché il cancelliere poteva appellarsi alla paura della rivoluzione, che era così diffusa nella piccola borghesia, nella media e piccola borghesia. Lottando contro i socialisti, promettendo di difendere lo Stato dai pericoli che minacciava, come lui diceva, il Partito Socialista, lui poteva creare un certo consenso, una certa integrazione fra gruppo dirigente conservatore e piccoli borghesi, cioè una specie di solidarizzazione della maggioranza dei sudditi con il governo. Più che mai si vedono nella sua azione, fatta con tutti i mezzi che aveva a disposizione, soprattutto con la stampa, atteggiamenti plebiscitari. Il cancelliere che, trapassando i partiti politici, si rivolge direttamente al popolo, dicendo che i partiti l'hanno lasciato solo, e che si rivolge al popolo perché elega altri deputati con i quali lui potrà fare questa politica conservatore in difesa degli interessi materiali e morali della nazione. Cioè, questi atteggiamenti che nella storiografia più recente vengono definite come bonapartistici, però io direi plebiscitario, perché sul concetto bonapartismo si potrebbe fare una discussione che non finirebbe più in questo pomeriggio. Già pochi giorni dopo il primo attentato contro l'imperatore, il cancelliere presentava il progetto di una legge contro i socialisti, che però fu rifiutata dai liberali e dal Partito del Centro nel maggio del 78. Seguiva un secondo attentato, il quale provocava grandissima eccitazione in vasti strati della popolazione, e Bismarck riusciva a dirigere questa eccitazione contro la socialdemocrazia. La sua ben nota reazione alla notizia del secondo attentato era quello che diceva ad uno dei suoi collaboratori: adesso sciogliamo il Reichstag, perché adesso si trovava nella situazione alla quale accennavo, poter cioè appellarsi alle masse, al mondo borghese, e faceva quella agitazione elettorale, l'agitazione contro i socialisti, che risultava il mezzo più idoneo per arrivare nel nuovo Reichstag ad una maggioranza conservatrice protezionista. I due partiti conservatori aumentavano da 78 a 116 seggi, i liberali nazionali perdevano, avevano avuto 128, e vedevano rieletti soltanto 99 deputati. Inoltre, durante la lotta elettorale, strumentata da Bismarck e dalla stampa ufficiosa, nel senso di cui parlavo, contro i socialisti, i nazionali liberali avevano dovuto promettere che adesso anche loro avrebbero accettato una proposta di legge contro i socialisti. E il nuovo Parlamento ha poi accettato, dopo discussioni molto vivaci, questa legge, che fu varata con i voti dei partiti conservatori, dei nazionalliberali e di alcuni indipendenti, tutti assieme 221, contro i voti del Partito Cattolico, dei liberali di sinistra, della socialdemocrazia e dei polacchi, che mettevano insieme 149 voti. La legge, che era stata rielaborata, ampliata, era oltremodo dura. Venivano sciolte e vietate tutte le associazioni, manifestazioni e scritti stampati di carattere socialdemocratico. Tutti i cosiddetti attivisti socialisti potevano essere espulsi con semplici misure di polizia e senza intervento della magistratura da certe città o regioni. I singoli governi, i governi dei singoli stati, potevano, con l'assenso del Consiglio federale, proclamare lo stato d'assedio in quelle regioni che ritenevano in pericolo a causa del movimento socialista. Ed è stato lo stesso governo prussiano, di cui Bismarck era allo stesso tempo capo di governo, che ha proclamato per esempio lo stato d'assedio per la città di Berlino, impedendo cioè ogni attività politica anche di altri partiti. Nonostante questo, il cancelliere avrebbe desiderato una legge ancora più dura. Era molto scontento del fatto che, nonostante la legge, deputati socialdemocratici potevano svolgere anche in futuro la loro attività in Parlamento, perché la frazione non fu sciolta e anche in futuro era possibile di eleggere deputati socialisti socialdemocratici. Inoltre desiderava una aggiunta alla legge che avrebbe dato la possibilità di licenziare ogni funzionario pubblico che era socialdemocratico senza dargli una pensione. Così scrisse lui proprio nel periodo in cui si discuteva la legge, accennando alla gran massa di piccoli impiegati statali, per esempio nelle ferrovie, che erano socialdemocratici, e prevedendo per l'eventualità di una sommossa socialista dei gravi pericoli che avrebbero potuto disturbare il funzionamento dell'apparato statale. Non posso qui trattare le vivaci discussioni che in tutta la Germania furono fatte per questa legge e che furono fatte soprattutto fra i partiti politici, di cui una gran parte era avversaria e ha votato contro la legge. Voglio citarvi soltanto due testi, perché li ho qui presenti dalla pubblicazione che ho fatto sui documenti, dei documenti sul Kulturkampf, perché dimostrano, almeno per la parte del partito del centro, come era difficile la situazione di questo partito a causa di questa legge. Lo stesso si potrebbe dire anche per gli altri partiti, soprattutto per il partito dei liberali di sinistra. Cito come primo un testo del Nunzio a Monaco, che naturalmente aveva fatto tutto affinché i deputati cattolici votassero per questa legge, e che adesso scrive a Roma, proprio nell'ottobre del 78, un giorno dopo l'ultima votazione a Berlino, che sia dei motivi indicati altre volte che hanno indotto i deputati cattolici a votare contro la legge suddetta, non può negarsi che il loro voto non ha prodotto buona impressione, anche presso molti certamente non avversi alla Chiesa. Veramente non sono mancate dichiarazioni dalla loro parte per mostrare da qual ragione erano a ciò mossi. Tuttavia il vedere i cattolici prestare mano, benché per diverso principio, ai socialisti e ai democratici, è cosa che da parecchi non si crede abbastanza giustificata. Al canto suo, però, uno dei deputati più influenti del partito del centro, proprio per spiegare alla curia romana l'atteggiamento del suo partito e per evitare che Bismarck avrebbe potuto sfruttare il voto negativo, scrisse a Roma, sempre nell'ottobre o nel novembre del 78, della prima legge superficiale rigettata e poi della seconda legge, la nouvelle loi qui alla encore plus loin que le premier. C'était impossible de l'accepter si l'on ne voulait pas renoncer à tout droit. Car par les paragraphes de cette loi, tout est mis sous la dictature de la police. Le droit des associations, celui des assemblées, la presse, etc. etc. Si potrebbe citare altre voci, ma mi pare che questo breve testo riassume esattamente il contenuto della legge. Tutto è mis sulla dictature della police, il diritto delle associazioni, quello dell'assemblea, la stampa pubblica, eccetera, eccetera. Con l'applicazione dura della legge cominciava quella persecuzione decennale della socialdemocrazia tedesca, che poi risultava come il più grande errore in politica interna, accanto al Kulturkampf, che il cancelliere ha commesso. Solo sotto le condizioni di questa legge vediamo quel processo di radicalizzazione ideologica del Partito Socialdemocratico in senso marxista. C'è proprio negli anni Ottanta che l'ala moderata perde l'importanza e che Bebel e Liebknecht impongono la linea di un marxismo, anche se si trattava di un marxismo un po' semplificato. Nonostante la pressione governativa, il numero dei votanti si aumentava in continuo. Dei votanti socialisti? Dei votanti socialisti. Perché, come dicevo, come organizzazione preelettorale, il movimento non era vietato. Cioè, sempre prima delle elezioni, la frazione poteva organizzare almeno una certa partecipazione alle elezioni. E vediamo per esempio che nel 1887 il partito aveva già più di 700.000 voti, nel 1890, nell'anno cioè in cui la legge non fu più prolungata, la socialdemocrazia ebbe 1,4 milioni di voti. E anche la strategia duplice che Bismarck, alla quale Bismarck aveva pensato sin dai inizi e che lui ha poi anche in parte realizzato nel decennio della legge contro i socialisti, questa strategia duplice non aveva l'effetto sperato. La legislazione in favore degli operai, che in sé era esemplare, non poteva sviluppare quella forza di integrazione nella quale il cancelliere aveva sperato, proprio perché era accompagnato dalla contemporanea repressione. Almeno due o tre parole su questa legislazione che il cancelliere, questa legislazione sociale, che sarebbe il pendant positivo alla legge repressiva, legge che il cancelliere ha potuto varare con l'aiuto dei partiti conservatori e in parte del partito del centro. Lo scopo principale di questa politica sociale era, e anche questo è stato sottolineato dalla più recente storiografia, più che prima, era di chiara natura politica, Lo scopo era di allontanare gli operai dalla SPD